In An Outer Country, nel 1984, il regista Marek Kanievska raccontava la vicenda di Guy Burgess e Donald MacLean, studenti a Cambridge negli anni 30, stigmatizzati all'epoca in quanto omosessuali e stigmatizzati più tardi in quanto comunisti e, a quanto ci è stato poi assicurato, spie dell'Unione Sovietica. Ritrovo queste due persone in una strana e disdicevole storia raccontata dal filosofo australiano Kimberly Cornish sulle pagine di una rivista che, orbando l'aggettivo liberale della E finale, pensa di esorcizzare tutto il male storicamente incistatosi nel concetto, nonché di poterne acquisire il bene rimasto e menarne gran vanto. Liberal. Aprile. Liberal di aprile del quest'anno. Cornish, architettando questa sua storia, vorrebbe rispondere a due domande. La prima è quella relativa all'origine più antica dell'antisemitismo di Hitler. Scopre così che in Mein Kampf Hitler parla di un ragazzo ebreo conosciuto in collegio, di cui lui e i compagni impararono a non fidarsi perché, come dice lui, alcune esperienze ci avevano fatto sospettare della sua discrezione. Sarebbe questa la prima traccia di antisemitismo in Hitler e dunque ecco che per Cornish vale la pena di scoprire chi fosse questo ragazzino dalle spalle tanto pesanti da sostenere una simile responsabilità. Il collegio frequentato da Hitler non annoverava un unico allievo di origini ebree, ma molti. In compenso all'epoca annoverava un unico allievo di famiglia ebrea convertitasi al cristianesimo, destinato poi alla celebrità in quanto filosofo, il noto Ludwig Wittgenstein. Aveva la stessa età di Hitler, ma negli studi era 2 anni avanti. Cornish non ci pensa 2 volte e cerca di dimostrare che il ragazzino ebreo detestato da Hitler era proprio Wittgenstein, anche se le prove sono in vero pochine. Entrambi davano del lei ai compagni di scuola. Boh, tutte e due fischiettavano bene la musica. Boh, Hitler non amava Brahms e Brahms era stato ricevuto a casa Wittgenstein. In Mein Kampf si cita la famiglia Wittgenstein come esempio di ebrei sposati con ariani e di capitalisti speculatori in borsa. E il giovane Ludwig poi, a quanto annota egli stesso in un suo diario, era particolarmente interessato al sacramento della confessione, il che confermerebbe a Cornish che il ragazzino poco discreto era proprio lui. Ma la faccia tosta di chi fa storia a volte è davvero stupefacente. Nessuno di noi accetterebbe in circostanze normali un riconoscimento effettuato e sancito su queste basi, ma nel mercato intellettuale, diciamo la verità, è possibile tutto. Anche far passare per indizi a carico indizi che potrebbero suggerire tutt'altro. Per esempio, se 2 ragazzi hanno il vezzo di dar del lei ai compagni, è più probabile che ciò li unisca piuttosto che li divida. Oppure se Hitler cita la famiglia Wittgenstein e se davvero uno dei suoi rampolli aveva rappresentato per lui tanta esecrabilità, è probabile, probabilissimo che se lo ricordi bene e che dunque lo citi direttamente. Invece no. Ma il meglio della storia viene dopo, perché Cornish vuole rispondere anche a una seconda domanda. Nella Cambridge degli anni 30 allignava una pericolosa congrega di comunisti omosessuali spie dell'URSS. Fra questi Kim Philby, Anthony Blunt e Donald MacLean e Guy Burgess, gli eroi di An Outer Country. Chi li arruolò al servizio di Stalin? Umorismo vuole che si tratti del filosofo Ludwig Wittgenstein. Ancora lui. Era a Cambridge nel 30, ha dunque l'occasione di conoscere i suddetti, era omosessuale e forse comunista, e anni dopo, badate, ha fatto un viaggio in Unione Sovietica. Per Cornish ce n'è a sufficienza. È lui. Ora, a parte le manchevolezze, ammesse anche qua e là dall'autore, questa storia ha alcuni gravi difetti. Innanzitutto c'è l'evidente tentativo di assegnare ad alcune singolarità il peso di responsabilità collettive. L'antisemitismo di Hitler sarebbe allora il risultato di un fortuito incontro scolastico e non il risultato di un accumulo di speculazioni orchestrate per secoli interi. L'antisemitismo sarebbe il risultato tutto suo e non di coloro che, alimentandosene, l'hanno alimentato. Il comunismo, se comunismo poi era, di Wittgenstein, sarebbe il risultato ottenuto battendo la via dell'omosessualità e non una scelta politica maturata, osservando, che so, come vanno le cose al mondo. Che in questa logica ci siano proprio i germi di quell'autoritarismo che a parole si vorrebbe bandire, mi sembra palese. Ma non solo. In storie come queste salta subito all'occhio un eccesso di simmetria. Da una parte Hitler, dall'altra Stalin, da una parte il nazismo, dall'altra il comunismo. Così come Wittgenstein avrebbe inconsapevolmente aizzato Hitler, lo stesso Wittgenstein, ironia della sorte, avrebbe poi foraggiato Stalin. Fatto è che in tempi come i nostri, dico i nostri, i tempi in cui all'insegna della morte delle ideologie si pretende la sostanziale paritarietà di nazismo e comunismo, tempi in cui il potere indossa finché può la maschera liberale, tutte le storie consapevolmente o inconsapevolmente sono composte tenendo d'occhio i piatti della bilancia. Quanto ci si mette sul primo va messo anche sul secondo, per non far torto a nessuno di coloro che oggi hanno il potere di farne pendere uno piuttosto che l'altro. Per onor di cronaca vorrei ricordare che La mia battaglia di Adolf Hitler venne pubblicato in due volumi nel 1925 e nel 1927. Ce n'è stato allora di tempo per rendersi conto, diciamo, della caratura dell'autore. Nella traduzione di Treves venne pubblicato in Italia nel 1934 dalla casa editrice del conte Valentino Bompiani, con dedica del Führer al medesimo. Non contento, nel 1938, per festeggiare le leggi razziali, il conte Valentino Bompiani pubblicò di Hitler anche La mia vita, nella traduzione di Revel. E così l'editore Bompiani fece quei soldi che nel dopoguerra gli permetteranno di acquisire un posto di rilievo nella cultura della sinistra.